Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Egregio direttore, la nostra Italia è simile a un ammalato molto grave attorno al quale si accalcano parenti e amici. Mentre dicono di voler prestare aiuto, uno fuma e pensa alla prossima gita alle Maldive, un altro telefona per concordare possibili affari, un altro ancora progetta viaggi e spese straordinarie, sperando nella più sollecita dipartita dell'infermo. L'unico che soffre veramente è il gatto, che non riesce più ad avere le coccole del suo amato padrone. Quale medicina per risollevare il malato? Ridurre drasticamente i compensi elargiti sotto qualsiasi forma ai parlamentari, ai politici regionali e ai loro collaboratori. Così si ridurrebbe drasticamente la corsa alle poltrone e alla politica potrebbero dedicarsi personaggi più puri. Stabilire un premio di produttività per i nostri amministratori in relazione agli obiettivi raggiunti. Fissare per legge un limite al bilancio dei partiti per calmierare tutte le spese che un buon padre di famiglia ritiene superflue per il corretto funzionamento. In parole povere, dovremmo essere un po' tutti più uguali, unico mezzo per riuscire ad avere una giustizia giusta, cioè uguale per tutti, tempestiva, certa, limpida, necessaria per essere un valido deterrente alla delinquenza, all'ingordigia e per costituire un baluardo a difesa di chi vorrebbe lavorare onestamente. Gianni Montebelluna. Caro Gianni, è vero, l'Italia è un ammalato grave, ma la prima medicina è quella di essere convinti che gli italiani continuano ad avere voglia di impegnarsi, di lavorare, di pensare non solo agli interessi propri, ma anche per quanto possibile al bene comune. Le medicine comunque che lei propone mi sembrano dettate da molto buon senso: ridurre i costi della politica, rendere più efficiente l'amministrazione, abolire i privilegi personali, sono tuttavia obiettivi altrettanto razionali quanto difficili da conquistare. Perché il problema di fondo è che la politica dovrebbe riformare se stessa. Ma sono convinto che attraverso la spinta dell'opinione pubblica, dei mezzi di comunicazione, ma anche ovviamente del voto alle elezioni, la politica possa anche cambiare passo. Nelle prossime votazioni regionali vi sarà una piccola possibilità, anche se solo nelle liste provinciali, di esprimere le preferenze tra i diversi candidati. Potrà essere un modo per esprimere anche un giudizio su quanti hanno governato fino ad ora. E si potrà così mandare a casa qualcuno, punendo gli esponenti delle chiacchiere degli interessi privati. Volete sapere cosa mi fa pensare questa cosa delle firme per le liste? Questi signori si sono creati attorno al palazzo un dedalo di viuzze, giuridiche ovviamente, atte a proteggere il palazzo stesso da un'eventuale invasione di persone non avvezze a quei quartieri. Purtroppo per noi questi signori hanno cominciato a prendere sotto gamba le procedure che loro stessi hanno creato. Chi a causa del suo mal pianga se stesso. Giovanni. Ritengo che la sospensione delle trasmissioni di approfondimento politico per il periodo preelettorale sia una cosa assurda. Non è concepibile che tale tipo di trasmissioni venga eliminato proprio mentre ci sarebbe bisogno di capire, valutare e comprendere quali siano i programmi dei vari candidati e dei vari schieramenti. Penso, sinceramente, che questa sia una manovra concertata fra tutti i vari partiti per mettere sotto silenzio, almeno per un po' di tempo, tutto il marciume che negli ultimi tempi è venuto a galla, evitando di gettare ulteriore benzina sul fuoco di un'Italia che mette in evidenza una situazione veramente preoccupante, ancora più preoccupante dei tempi di Tangentopoli. E, secondo me, questo silenzio fa comodo a tutti, a destra e a sinistra. È una questione concordata da tutti, perché il marciume non conosce confini. Ai tempi dei Romani, gli imperatori in difficoltà promuovevano 6 mesi di giochi. Adesso cercano di addormentarci col calcio e i terremoti. Occhio non vede, cuore non sente. Massimo. Vorrei intervenire sul tema della privatizzazione delle municipalizzate. Personalmente credo che in materia di servizi pubblici bisognerebbe trovare un equilibrio tra erogazione di servizi imprescindibili a prezzi sociali e privatizzazione. Prendiamo ad esempio l'acqua. Si fa una stima di quanto sia il consumo di acqua necessario per una quotidianità normale. Mettiamo ad esempio 50 litri al giorno pro capite. Bene, allora si privatizza l'acqua, ma si impone il prezzo sociale per i primi 50 litri. Dopodiché, chi canta sotto la doccia per un quarto d'ora, chi lava la macchina tutti i giorni, chi lascia i rubinetti aperti mentre si lava i denti, paga di più. Stesso discorso per luce, gas, rifiuti e tutti quegli ambiti in cui si può fare una stima di consumo sociale. Così si ottengono due risultati. Si educa la gente e si mandano a casa gli intrallazzoni. Gaetano. Credo che dobbiamo innanzitutto stabilire dei punti fermi su cosa sia pubblico e cosa privato. I servizi strategici di vitale importanza pubblica, quelli indispensabili alla vita di ogni individuo, oggi imprescindibili, sono l'acqua, l'energia e l'ambiente. Fino a quando queste esigenze non erano economicamente redditizie, il privato se ne è tenuto lontano. Grandi opere di infrastrutture, quali le reti idriche, la rete elettrica e aggiungo anche le reti telefoniche e le reti autostradali, sono state finanziate completamente dalla fiscalità generale. Avevamo gli acquedotti comunali, l'Enel, la SIP, le autostrade pubbliche, le FS, gli spazzini comunali, le discariche controllate male, eccetera. Fino agli anni Ottanta tutto questo funzionava abbastanza bene in termini economici e le ricadute occupazionali pubbliche erano importanti fino a raggiungere livelli eccellenti di occupazione diffusa. Poi qualcosa è successo che ha portato a degenerare il sistema. Gli appetiti dei sindacati e dei lavoratori hanno portato a credere che potessimo crescere a dismisura. Da una parte quindi stipendi alti, pensioni facili, occupazione eccedente il fabbisogno. Dall'altra gli imprenditori, le grandi famiglie di capitali, Benetton, De Benedetti, Agnelli, Lucchini, eccetera, con la complicità dei politici loro referenti, si sono interessati sempre di più a settori che potenzialmente stavano cominciando a salire in testa alle possibilità maggiori di monopolio privato e quindi di redditività alta e sicura. E hanno messo in moto meccanismi di manovre politiche atte a privatizzare interi settori di attività strategiche, per poi impossessarsi con piccole percentuali di controllo delle azioni delle stesse aziende. Hanno iniziato a far salire i costi e, conseguentemente, l'inflazione e il debito pubblico, fino a livelli inaccettabili. Questo sistema attuale di monopoli privati arricchisce pochi e le ricadute sono negative per la società. Le prime voci di taglio, quando questa decresce, sono i dipendenti. La domanda è: che tipo di società vogliamo? L'esperienza non insegna niente, inducendoci alla ribellione? Oppure siamo succubi di falsa testimonianza di ciò che veramente accade e accettiamo inconsapevolmente rassegnati la deriva della civiltà? Valdimiro. Ho rinunciato da anni all'idea di vedere la nazionale italiana di calcio annoverare tra le sue fila quelli che ragionevolmente si possono definire i migliori giocatori italiani. E non pongo maggiore fiducia nelle prossime convocazioni. Per questo elenco 10 speranze personali di diversa natura relative ai prossimi mondiali di calcio. Spero vivamente che la federazione, in un momento di lucidità, ricordi che la maglietta della nazionale è azzurra con i calzoncini bianchi e ci risparmi lo schifo di quei calzoncini azzurri che sviliscono cromaticamente la divisa e che vengono indossati a sproposito, anche quando i colori della maglia degli avversari di turno non ne richiederebbe l'affatto l'uso. Spero fortemente che qualora le magliette di gran parte delle squadre fossero di un unico produttore, almeno ci venisse risparmiata la monotonia di decori o fregi monotematici, dramma che spesso coinvolge anche la scelta del tipo di carattere con cui scrivere nomi e numeri dei calciatori sulle divise. Spero parimenti che altrettanta lucidità porti alla scelta di colori dei palloni e dei numeri sulle maglie, che li rendano visibili, televisivamente, anche in gare notturne. Spero che il clima invernale del Sudafrica induca i giocatori a non togliersi le maglie dopo un gol, evitandoci il vomitevole spettacolo di tatuaggi di ogni forma e grandezza, che rendono il rettangolo di gioco più simile al luogo di raduno di marinai in libera uscita, che non ha un campo di calcio. Invoco i numi affinché proprio il clima non induca molti giocatori a darci il ridicolo spettacolo di calzamaglie, guanti, maglie, dolce vita, eccetera, indossati irregolarmente sotto la maglietta, a maniche corte. Invano confido di non vedere più la regola del fuorigioco applicata in modo demenziale, con il benestare di federazioni internazionali varie. Spero tanto di non sentire più l'affermazione idiota di rigori come questo in una partita se ne dovrebbero fischiare 80, per cui meglio sorvolare. Cominciamo col fischiarli. Magari va a finire che in area di rigore si gioca più a calcio che a wrestling e di rigori non ci sia bisogno di fischiarne poi tanti. Sogno il giorno in cui la nostra nazionale non scenda in campo, in partite decisive, schierando un'unica punta in nome di alchimie ed equilibri tattici che poi, quasi regolarmente, vengono sviliti dai fatti. L'unico risultato che si ottiene è quello di concedere 20 metri in più alle avanzate dei difensori avversari. Come gradirei non vedere l'ennesima partita decisiva dell'Italia finire ai rigori. Qualora il signor Lippi decidesse dopo il torneo di lasciare la squadra, spero tanto che chi lo sostituirà abbia l'ardire di far giocare i giovani, come già avviene anche in nazionali che giocano bene quanto la nostra, se non meglio. Guglielmo. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.